I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Tra le novità in arrivo sulle pensioni, la più attesa è certamente quella che va sotto il nome di APE, anticipo pensionistico. Proviamo a capire che cos'è e come funzionerà questo meccanismo, grazie al quale i lavoratori di tutte le categorie potranno lasciare il lavoro fino a 3 anni e 7 mesi prima dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia. Quindi, l'anno prossimo, chi avrà almeno 63 anni di età potrà smettere di lavorare. Invece di ricevere la pensione, otterrà però un prestito equivalente all'importo della pensione, prestito che dovrà però essere restituito negli anni futuri. Questo è un punto delicato e ieri durante l'incontro governo-sindacati si è capito che solo in alcuni casi limitati l'uscita anticipata avrà un costo pari a zero. Solo disoccupati di lungo corso, solo disabili, soggetti impegnati in attività usuranti non dovranno restituire il prestito, ma in tutti gli altri casi, cioè quando il lavoratore anticipa la pensione per scelta personale, i costi potrebbero raggiungere il 5-6% all'anno, quindi il 15-18% su base triennale. Quindi prendo l'anticipo per 3 anni, ma poi la mia pensione viene ridotta perché devo restituire questo importo. È un'operazione coerente sotto il profilo dei conti pubblici, perché non viene intaccata la struttura della riforma Fornero, i risparmi collegati alla riforma. Si tratta ora di capire se sarà anche un'operazione efficace, perché il meccanismo della restituzione dell'anticipo in molti casi potrebbe essere troppo oneroso per i lavoratori. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. La notizia era nell'aria, ma ora è il ministro dell'economia Piercarlo Padoan a confermare che nelle prossime settimane, insieme all'aggiornamento del DEF, che è il documento di economia e finanza, quello che contiene gli elementi base per la legge di bilancio, arriveranno le nuove previsioni del governo sulla crescita italiana. L'ultima rilevazione dell'Istat ha segnalato la frenata con crescita zero del nostro prodotto interno lordo, con un'economia che quindi non sta più crescendo così velocemente come ci si aspettava. Basta dire che esattamente un anno fa, ottobre del 2015, le aspettative di crescita per il 2016 erano grosso modo dell'1,5%, poi sono scese all'1,2%, poi si sono ulteriormente ridotte all'1%. Ora si andrà ancora più giù, probabilmente intorno allo 0,8-0,9%, in linea con le previsioni fornite dagli istituti internazionali. È vero, come dice Padoan e come ha pure ribadito il premier Matteo Renzi, che l'economia sta comunque crescendo dopo 3 anni di recessione, ma è altrettanto vero che proprio perché la recessione è stata così violenta, così profonda, sarebbe servito ben altro slancio per recuperare capacità produttiva e creare anche nuova occupazione. In ogni caso, questo è lo scenario che si presenta alla vigilia della nuova legge di bilancio, nella quale, a maggior ragione e pur nel rispetto dei vincoli dell'Unione Europea, bisognerà trovare gli spunti e gli strumenti giusti per dare più vigore alla crescita della nostra economia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.